Capitolo 19. Quando Giorgio IV regnava ancora sulle solitudini di Windsor, quando il duca di Wellington era primo ministro e Mr. Vincey era sindaco dell'antica corporazione municipale di Middlemarch, Mrs. Casabo, nata Dorothea Brooke, aveva intrapreso il suo viaggio di nozze a Roma. A quei tempi il mondo in genere era più ignorante nel bene e nel male, di circa 40 anni rispetto ad oggigiorno. I viaggiatori non portavano informazioni complete sull'arte cristiana né in testa né in tasca, e persino il più brillante critico inglese del tempo prendeva la tomba traboccante di fiori della Vergine ascesa al cielo per un vaso ornamentale da attribuire alla fantasia del pittore. Il romanticismo, che ha contribuito a colmare di amore e di conoscenza alcuni vuoti di insensibilità, non avevano ancora compenetrato il periodo con il lievito e non era entrato nel cibo di tutti. Stava ancora fermentando come entusiasmo vigoroso ben distinguibile in certi artisti tedeschi dalla lunga chioma residenti a Roma, e i giovani di altre nazionalità che lavoravano o doziavano vicino a loro erano talvolta attirati da quel movimento in espansione. Una bella mattina un giovanotto, i cui capelli non erano eccessivamente lunghi, ma abbondanti e ricciuti, e che per altri aspetti era equipaggiato all'inglese, aveva appena voltato le spalle al torso del Belvedere nel Vaticano e stava osservando la magnifica vista della montagna dal vicino vestibolo rotondo. Era tanto assorto da non notare l'approssimarsi di un vivace tedesco dagli occhi scuri che gli si avvicinò e, posatagli una mano su una spalla, disse con accento marcato: «Vieni qua! Presto, o lei avrà cambiato posa!» Egli rispose prontamente al richiamo e le due figure passarono agilmente davanti al Meleagro, dirette verso la sala dove l'Arianna Reclina, allora chiamata Cleopatra, giace nella voluttà marmorea della sua bellezza, il drappeggio che le si spiega attorno con la naturalezza e la morbidezza di un petalo. Erano giunti proprio in tempo per vedere un'altra figura in piedi contro un piedistallo vicino al marmo della figura Reclina. Una ragazza fiorente e viva, la cui forma, che l'Arianna non faceva sfigurare, era vestita di un drappeggio grigio dall'aria quacquera. Il lungo mantello allacciato al collo era gettato all'indietro e una stupenda mano senza guanto faceva da cuscino alla guancia, spingendo alquanto indietro il bianco cappello di castoro che era divenuto una specie di aureola intorno al volto, inquadrato da una chioma castano scura intrecciata con semplicità. Essa non guardava la scultura e probabilmente non pensava ad essa. I grandi occhi fissavano con aria sognante un fascio di luce che si posava sul pavimento, ma si accorse di due strani i quali si fermarono di botto come per contemplare la Cleopatra. E senza guardarli se ne andò subito a raggiungere una cameriera e una guida turistica che stavano gironzolando per la sala a una certa distanza. «Cosa ne pensi di quella come bel esempio di antitesi?» disse il tedesco, cercando nel volto dell'amico una reazione ammirata, ma continuando con loquacità senza attendere alcuna risposta. «Là c'è la bellezza antica, non cadaverica anche nella morte, ma cristallizzata nel completo appagamento della sua perfezione sensuale. E qui c'è la bellezza vivente, quella consapevolezza di secoli di cristianesimo nel petto. Ma dovrebbe andare vestita da monaca. Credo che abbia quasi l'aspetto di quella che voi chiamate una quacquera. Io nel mio quadro la vestirei da monaca. È sposata però. Ho visto la fede nuziale alla sua stupenda mano sinistra, altrimenti avrei pensato che il giallognolo Glaze Licker fosse suo padre. L'ho visto separarsi da lei un bel po' di tempo fa e proprio adesso l'ho trovata in quella magnifica posa. Ma pensa, forse lui è ricco e gli piacerebbe farle fare il ritratto. Ah, è inutile correre dietro gli occhi. Ecco che se ne va. Seguiamo la casa». «No, no», fece il compagno con l'espressione un po' corrucciata. «Sei strano, Ladislav. Sembri sbalordito. La conosci?» «So che è sposata con mio cugino», disse Will Ladislav, percorrendo ad andatura lenta la sala con aria preoccupata, mentre il suo amico tedesco si teneva di fianco a lui e lo osservava impaziente. «Cosa? Il Geschlicher assomiglia di più a uno zio, un genere di parente più utile. Lui non è mio zio. Ti dico che è il mio secondo cugino», disse Ladislav con una punta di irritazione. «Sean, Sean, non essere irascibile. Non sarai arrabbiato con me perché penso che Missy secondo cugino sia la più perfetta giovane Madonna che abbia mai visto». «Arrabbiato, stupidaggini. L'ho vista solo una volta in precedenza, per un paio di minuti, quando mio cugino me l'ha presentata proprio prima che lasciassi l'Inghilterra. Allora non erano sposati, non sapevo che sarebbero venuti a Roma. Ma adesso andrai a trovarli, scoprirai che indirizzo hanno dal momento che conosci il nome. Vuoi che andiamo alla posta? E potresti parlare del ritratto». «Accidenti a te, Naumann, non so cosa fare. Non ho la tua faccia tosta. Bah, questo perché sei un dilettante e un superficiale. Se fossi un artista, considereresti la signora secondo cugino, una forma antica animata dal sentimento cristiano, una sorta di Antigone cristiana, forza sensuale controllata dalla passione spirituale. Sì, è che il fatto che tu la ritragga sia lo scopo principale della sua esistenza. La divinità che passa a una completezza superiore quasi si esaurisce nell'atto di ricoprire il suo pezzetto di tela. Se vuoi, sono un dilettante. Io non credo che tutto l'universo tenda a trasformarsi nell'oscuro significato delle tue pitture. Ma è così, mio caro. Finora si sta sforzando attraverso di me, Adolf Naumann. Questo è assodato, disse il bonario pittore, posando una mano sulla spalla di Ladislav e per nulla irritato dall'inspiegabile punta di malumore del suo tono di voce. Ascolta, la mia esistenza presuppone l'esistenza dell'universo intero, non è vero? E la mia funzione è di dipingere. E come pittore ho una concezione completamente Jane-ish della tua prozia o bisnonna come soggetto di una pittura. Perciò l'universo tende verso quel quadro attraverso quel particolare uncino, artiglio che te ne è teso sotto forma della persona, non è vero? Ma cosa succede se un altro artiglio sotto forma della mia persona tenta di frustarlo? Allora il caso è un po' meno semplice. Per niente. Il risultato della lotta è la stessa cosa, quadro o non quadro, logicamente. Will non poté resistere a questo temperamento imperturbabile e la nube sul suo volto si sciolse in una risata solare. Andiamo, amico, mi aiuterai? Disse Naumann in tono fiducioso. No, stupidaggini, Naumann. Le signore inglesi non sono al servizio di chiunque per fare le modelle. E tu vuoi esprimere troppo con la tua pittura? Avresti fatto solo un ritratto migliore o peggiore con uno sfondo di cui ogni conoscitore avrebbe dato una spiegazione diversa, pro o contro. Che cos'è il ritratto di una donna? Le tue pitture e i tuoi plastici, dopo tutto, sono povere cose. Disturbano e ottundono le idee invece di sollevarle. La lingua è uno strumento più fine. Sì, per quelli che non sanno dipingere, disse Naumann. Qui hai perfettamente ragione. Io non ti ho dato il consiglio di dipingere, amico mio. L'amabile artista diede il suo colpo di pungiglione, ma Ladislav non volle dare a vedere di essere stato punto. Proseguì come se non avesse udito. La lingua dà un'immagine più piena, che è tanto migliore perché è vaga. Dopotutto la vera vista è interiore e la pittura ti guarda con un'insistente imperfezione. Io questo lo avverto soprattutto nelle rappresentazioni delle donne, come se una donna fosse una semplice superficie colorata. Devi attendere il movimento e il tono. È diverso persino il loro modo di respirare. Mutano da un momento all'altro. Questa donna che hai appena visto, per esempio, come dipingeresti la sua voce di grazia? Ma la sua voce è molto più divina di qualsiasi cosa tu abbia mai visto di lei. Capisco, capisco, sei geloso. Nessun uomo deve avere la presunzione di poter dipingere il tuo ideale. Questa è una cosa seria, amico mio. La tua prozia, Der Neffe als Onkel, in un senso tragico, Unger Auer. Tu e io litigheremo, Naumann, se chiami un'altra volta quella signora mia zia. Allora, come deve essere chiamata? Mrs. Casabo. Buono, supponiamo che io faccia la sua conoscenza a tuo dispetto e scroparà che le piaccia moltissimo essere dipinta. Sì, supponi, disse Will Ladislav con un tono sommesso di disprezzo che voleva liquidare l'argomento. Si rendeva conto di essere irritato per motivi ridicolmente futili, per metà creazioni della sua stessa fantasia. Perché se la prendeva tanto per Mrs. Casabo? Eppure aveva l'impressione che gli fosse successo qualcosa riguardo a lei. Ci sono personaggi che si creano continuamente scontri e ostacoli, in drammi che nessuno è disposto a recitare assieme a loro. Le loro suscettibilità si scontrano con oggetti che restano tranquillamente fermi. Capitolo 20. 2 ore dopo, Dorotea era seduta in una stanza interna o boudoir di un bel appartamento sulla via Sistina. Mi duole aggiungere che stava singhiozzando amaramente, con un tale abbandono a questo sollievo del cuore oppresso, quale una donna solitamente frenata dal proprio orgoglio e dal riguardo verso gli altri, talvolta si permette quando si sente sicura di essere sola. E Mr. Casabo si sarebbe sicuramente trattenuto per un certo tempo al Vaticano. Eppure Dorotea non poteva dire neppure a se stessa di dolersi di qualcosa di ben definito. E fra i suoi pensieri e sentimenti confusi, l'idea che cercava di esprimersi con chiarezza era il grido d'accusa contro se stessa, che le diceva che il suo senso di desolazione era da imputare alla sua povertà spirituale. Aveva sposato l'uomo di propria scelta e col vantaggio sopra la maggior parte delle ragazze che si era prefigurata il proprio matrimonio soprattutto come l'inizio di nuovi doveri. Fin dal primo momento aveva pensato che Mr. Casabo aveva una mente così superiore alla propria, che egli doveva spesso dedicarsi a studi a cui essa non poteva del tutto partecipare. Per di più, dopo la breve e limitata esperienza della sua vita di signorina, ora vedeva Roma, la città della storia visibile, dove il passato di un eterno emisfero sembra avanzare in funerea processione con strane immagini ancestrali e trofei ammassati da lontane terre. Ma questa stupenda frammentarietà intensificava la fantastica singolarità della sua vita di sposa. Dorotea ora si trovava da 5 settimane a Roma e nelle miti mattinate, in cui l'autunno e l'inverno sembrano procedere mano nella mano, come una felice coppia di anziani, uno dei quali ben presto sarebbe sopravvissuto in una gelida solitudine, le aveva fatto dei giri in carrozza, dapprima con Mr. Casabo, ma ultimamente soprattutto con Tan Trip e la loro guida esperta. Era stata condotta nelle migliori gallerie, era stata portata nei principali punti panoramici, le erano state mostrate le rovine maggiori e le chiese più splendide, e aveva finito per preferire il più delle volte di uscire nella campagna, dove si poteva sentire sola con la terra e il cielo, lontana dall'opprimente mascherata dell'epoca in cui anche la sua stessa vita sembrava diventare un mask con strumenti enigmatici. Per coloro che hanno osservato Roma, con la forza vivificatrice di un sapere che infonde un'anima sempre più vitale in tutte le forme storiche e rintracci i punti di transizione soppressi che uniscono ogni contrasto, Roma può essere ancora il centro spirituale e l'interprete del mondo. Ma prego quelle persone di pensare a un altro contrasto storico, le gigantesche rivelazioni incomplete di quella città imperiale papale sovrapposte repentinamente alle idee di una ragazza che era stata educata secondo il puritanesimo inglese e svizzero, che era stata nutrita di smilzi e storie protestanti e di un'arte per lo più del tipo da ricamo. Una ragazza la cui natura ardente trasformava tutta la sua piccola reazione di conoscenze in principi, fondendo le proprie azioni nei loro stampi e le cui emozioni intense conferivano alle cose più astratte la qualità di un piacere o di un dolore. Una ragazza che ultimamente era divenuta una moglie e dall'accettazione entusiastica di un dovere sconosciuto si era trovata immersa in una tumultuosa preoccupazione per il proprio destino personale. Il peso della Roma, inintellegibile, poteva posarsi con dolcezza sulle ninfe luminose a cui faceva da sfondo per le brillanti scampagnate della società inglese, ma Dorotea non possedeva tali difese contro le impressioni intense. Rovine e basiliche, palazzi e colossi, collocati in mezzo a un'attualità sordida, dove tutto ciò che era vivo e percorso dal calore del sangue sembrava precipitato nella profonda degenerazione di una superstizione disgiunta dalla reverenza. La vita titanica più indistinta eppure ardente che occhieggiava e si dibatteva sui muri e i soffitti, le lunghe prospettive di forme bianche, quegli occhi marmoree sembravano conservare la luce monotona di un mondo estraneo. Tutto questo grande naufragio di ideali ambiziosi, sensuali e spirituali, mescolati in maniera confusa con i segni di una dimenticanza e di una degradazione attuali. Dapprima l'attirarono come una scossa elettrica e poi le si imposero con quel dolore che è dato da un eccesso di idee confuse che frenano il flusso dei sentimenti. Forme, sia pallide che luminose, si impossessarono della sua giovane sensibilità e le si fissarono nella memoria, anche quando lei non pensava ad esse, preparando strane associazioni che persistettero per gli anni a venire. I nostri stati d'animo tendono a portare con sé immagini che si succedono l'un l'altra come i quadri di una lanterna magica in un dormiveglia. E in certi stati di fiacco abbandono, Dorotea per tutta la vita continuò a vedere la vastità di San Pietro, l'enorme baldacchino di bronzo, l'ispirazione citata negli atteggiamenti e negli abiti dei profeti e degli evangelisti nei mosaici in alto, e i drappi rossi, appesi per il Natale, che si dispiegavano dovunque come una malattia della retina. Non che questo sbalordimento interiore di Dorotea fosse alcunché di assai eccezionale. Molte anime nella loro giovane purezza sono scaraventate fuori, in mezzo a un mondo di incoerenze, lasciate a trovare il modo di stare in piedi, mentre i più grandi badano gli affari propri. Ne posso supporre che quando Mrs. Casabo viene scoperta in una crisi di pianto 6 settimane dopo il matrimonio, la situazione venga considerata tragica. Un qualche scoramento, un venir meno del cuore di fronte al nuovo futuro concreto che sostituisce quello immaginato. Non è inconsueto, noi non ci aspettiamo che la gente rimanga profondamente commossa da ciò che non è inconsueto. Quell'elemento di tragedia che consiste nel fatto stesso di presentarsi con assiduità non si è ancora rivelato al rozzo sentimento dell'umanità e forse le nostre persone non ne potrebbero sopportare una gran quantità. Se vedessimo e sentissimo in modo intenso tutta la normale vita umana, sarebbe come udire l'erba crescere. E il pulsare del cuore dello scoiattolo, moriremo per il frastuono che è al di là del silenzio. Così, come stanno le cose, i più svegli di noi si muovono ben imbottiti di stupidità. Tuttavia, Dorotea stava piangendo, e se le si fosse chiesto di rivelarne la causa, avrebbe potuto farlo con alcune parole generiche, quali ho già usato io. Essere costretta ad essere più precisa. Sarebbe stato come tentare di fare una storia delle luci e delle ombre, che col nuovo futuro concreto che stava sostituendo quello immaginario ricavava la propria materia dalle infinite minuzie, grazie alle quali il suo concetto di Mr. Casaubon e del proprio rapporto coniugale, ora che lo aveva sposato, stava gradualmente mutando, col movimento impercettibile di una lancetta di un orologio, rispetto a ciò che era stato nel suo sogno di fanciulla. Era ancora troppo presto per riconoscere pienamente, o perlomeno ammettere il mutamento, e ancora di più per dare un nuovo assetto a quella devozione che era una parte così necessaria della sua vita spirituale che lei era quasi certa di ritrovare prima o poi. La ribellione permanente, il disordine di una vita priva di un qualche reverente proposito d'amore, non era possibile per lei. Ma ora viveva in un intervallo in cui la stessa forza della sua natura ne intensificava la confusione. In tal modo, i primi mesi di matrimonio spesso sono periodi di fermento critico, sia quello di una pozza di gamberi o di acque più profonde, che in seguito si placa in una gaia armonia. Ma Casaubon era forse meno dotto di prima. I suoi modi di esprimersi erano mutati, oppure i suoi sentimenti erano divenuti meno lodevoli. Incostanza delle donne. Gli veniva meno la sua cronologia o la capacità di esporre non solo una teoria, ma i nomi di coloro che l'avevano sostenuta. Oppure la sua preparazione a citare le fonti di qualsiasi argomento richiestogli. E Roma non era l'unico luogo del mondo per dare libero sfogo a simili doti. Inoltre l'entusiasmo di Dorotea non aveva indugiato in particolar modo sulla prospettiva di alleviare il peso e forse la tristezza con cui le grandi imprese gravano su colui che deve compierle. E che un simile gravame opprimesse Mr. Casaubon era solo più evidente di prima. Tutte queste sono domande sconvolgenti, ma anche se qualsiasi altra cosa restasse immutata, la luce era mutata e non si può trovare l'alba perlacea al mezzodì. Il fatto è incontestabile. Un vostro prossimo, del cui carattere siete a conoscenza solo tramite le brevi apparizioni e i congedi di alcune settimane immaginose chiamate corteggiamento, può, quando è visto nella continuità della vita matrimoniale, rivelarsi qualcosa di meglio o di peggio di quello che vi siete prefigurato, ma certo non apparirà del tutto lo stesso. E sarebbe sorprendente scoprire con quale rapidità di mutamento è avvertito se non avessimo mutamenti affini a cui paragonarlo. Dividere l'appartamento con un brillante compagno di tavola o vedere il vostro uomo politico preferito al ministero fa provocare mutamenti altrettanto rapidi. Anche in questi casi, cominciamo col conoscere poco e col credere molto e talvolta finiamo per invertire le quantità. Tuttavia, tali paragoni potrebbero essere fuorvianti perché nessun uomo era incapace di vistose simulazioni più di Mr. Casaubon. Aveva un carattere sincero come quello di un qualsiasi ruminante e non aveva contribuito attivamente a creare alcuna illusione su se stesso. Come mai, nelle prime settimane trascorse dal matrimonio, Dorotea non aveva osservato distintamente, ma avvertito con un soffocante senso di depressione che alle ampie prospettive, alle grandi distese di aria fresca che aveva sognato di trovare nella mente del marito, erano subentrate anticamere, corridoi tortuosi che non sembravano condurre a nulla. Suppongo che fosse perché nel corteggiamento tutto è considerato provvisorio e preparatorio, e il più esiguo esempio di virtù o di dote viene preso come garanzia di piacevoli riserve che il gran tempo a disposizione nel matrimonio rivelerà. Ma una volta varcata la soglia del matrimonio, l'attesa si concentra sul presente. Una volta imbarcati per il vostro viaggio coniugale, è impossibile non rendersi conto che non si va avanti e che il mare non è in vista, che insomma state esplorando un bacino chiuso. Nelle loro conversazioni prima delle nozze, Mr. Casaubon si era soffermato spesso su una qualche spiegazione o dettaglio discutibile di cui Dorotea non vedeva l'importanza, ma una tale imperfezione nella loro armonia sembrava da attribuire all'intermittenza del loro rapporto e sostenuto dalla fiducia nel loro futuro. Lei aveva porto orecchio con pazienza appassionata a un'elencazione di possibili argomentazioni contro la concezione completamente nuova di Mr. Casaubon sul dio filisteo Dagone o altre divinità pesce, pensando che in seguito avrebbe considerato questo argomento che lo toccava così da vicino, dalla stessa elevata posizione da cui senza dubbio era divenuto tanto importante per lui. Ancora, la frase prosaica, il tono sbrigativo con cui egli trattava ciò che per lei erano i pensieri più emozionanti, si potevano spiegare facilmente col senso di fretta e di preoccupazione che lei stessa aveva provato durante il fidanzamento. Ma ora, da quando erano a Roma, con tutto il suo sentimento intenso risvegliato a una tumultuosa attività e quella vita divenuta un nuovo problema per la presenza di nuovi elementi, essa era venuta a rendersi sempre più conto, con un certo terrore, che la propria mente scivolava di continuo in accesi di ira o di repulsione, oppure in una sconsolata stanchezza. Fino a che punto il saggio Hooker o qualsiasi altro eroe dell'erudizione sarebbe stato lo stesso all'età che ora aveva Casaubon, essa non poteva saperlo, cosicché egli non aveva modo di guadagnarci da un paragone. Ma la maniera con cui il marito commentava gli oggetti stranamente impressionanti che la circondavano aveva cominciato a comunicarle una sorta di brivido mentale. Forse lui aveva la migliore intenzione di cavarsela degnamente, ma non andava oltre. Ciò che era nuovo per la mente di lei era superato per quella di lui, e quella capacità di pensare, di sentire, che era stata stimolata in lui dalla vita generale dell'umanità, da lungo tempo si era contratta una specie di preparato disseccato a una mummia di sapere senza vita. Quando lui diceva: "Questo vi interessa, Dorotea? Volete che restiamo un po' di più? Sono disposta a trattenermi se lo desiderate." E sembrava che andarsene o trattenersi fosse deprimente in egual misura. Oppure: "Vi piacerebbe andare alla Farnesina, Dorotea? Ci sono degli affreschi celebri disegnati o dipinti da Raffaello che molte persone pensano che valga la pena di vedere." "Ma a voi interessano?" era l'eterna domanda di Dorotea. "Sono, credo, assai apprezzati. Alcuni di essi rappresentano la favola di Cupido e Psiche, che è probabilmente l'invenzione romantica di un periodo letterario e non può, credo, essere considerata un prodotto mitico genuino. Ma se vi piacciono queste pitture murali, possiamo facilmente andarci in carrozza. E poi credo avreste visto le opere principali di Raffaello. Sarebbe un peccato tralasciarne una qualsiasi in un viaggio a Roma. È il pittore che si ritiene abbia combinato la grazia più completa della forma con la sublimità dell'espressione. Tale, almeno, ho sentito che è l'opinione dei conoscitori." Questo genere di risposte, date con misurato tono ufficiale, come di un prete che legge secondo le indicazioni del messale, non contribuivano a giustificare le glorie della città eterna o a farle nascere la speranza che se le avesse conosciute meglio il mondo le si sarebbe illuminato di gioia. Forse per una giovane creatura entusiasta non vi è alcun contatto più deprimente di quello di una mente in cui anni pieni di sapere sembrano essersi conclusi in una vuota assenza di interesse o di comprensione. Su altri argomenti, in effetti, Mr. Casaubon mostrava un tenace interesse e uno zelo che sono solitamente considerati effetto dell'entusiasmo, e Dorotea era ansiosa di seguire questa spontanea direzione dei suoi pensieri invece di essere indotta a credere di essere lei che lo distoglieva da essa. Ma gradatamente stava cessando di aspettarsi, con l'incantata fiducia di un tempo, di scoprire un qualsiasi grande orizzonte dove lei lo seguiva. Anche il povero Mr. Casaubon era perso fra stanzini e scale a chiocciola, e in un'agitata incertezza sui cabiri o in una denunzia di paralleli sconsiderati fatti da altri studiosi di mitologia, perdeva facilmente di vista qualsiasi scopo che l'aveva spinto a queste fatiche. Con la sua candela ben piantata davanti, dimenticava l'assenza di finestre e in amare considerazioni manoscritte sulle idee di altri riguardo alle divinità solari, era divenuto incurante della luce del sole. Queste caratteristiche, fisse e immutabili come acciaio e Mister Casebo, sarebbero potute passare inosservate più a lungo a Dorotea, se questa fosse stata incoraggiata a sfogare i suoi sentimenti di ragazza e di donna. Se egli le avesse tenuto le mani fra le proprie e avesse ascoltato con la gioia della tenerezza e della comprensione tutte le piccole storie che costituivano l'esperienza di lei, l'avesse ricambiata con lo stesso genere di intimità, in modo che il passato di ciascuno potesse diventare parte del loro affetto e conoscenza reciproci, oppure se essa avesse potuto alimentare il proprio affetto con quelle carezze infantili a cui è incline ogni donna dolce che ha cominciato a riversare baci sulla zucca dura della sua bambola calva, creando con la ricchezza del proprio amore un'anima felice all'interno di quella legnosità. Questa era l'inclinazione di Dorotea. Nonostante tutto il suo grande anelito a conoscere ciò che era lontano da lei e a dimostrare un'ampia benevolenza, essa possedeva sufficiente ardore per ciò che le era vicino, per baciare la manica del cappotto di Mister Casebo o per carezzargli i lacci delle scarpe, se egli le avesse rivolto un qualsiasi segno di incoraggiamento diverso dall'affermazione solenne, pronunciata con infallibile proprietà di linguaggio, che lei possedeva una natura affettuosa all'estremo e veramente femminile, mostrando allo stesso tempo, allungata educatamente una mano per prenderle una sedia, di considerare queste manifestazioni piuttosto rozze e sorprendenti.